corpo che cambia, riflessa nel mare, vorresti nuotare, raccogli i capelli, ti fai guardare, sei bella al sole, è un raggio d'amore, questo colore, laggiù nel mare, vorrei volare con te, perché una favola cos'è? Una favola per te è scoprire il tuo cuore, è scoprire l'amore. Una favola cos'è? Una favola per te è sentirsi più leggera, perché questa è una storia vera, vera. La vivi oggi tu. Cerca sempre il lato buono di ogni cosa, non arrenderti mai, non arrenderti mai, sei forte, vedrai, non arrenderti mai, non arrenderti mai, se questo è amore lo saprai, non arrenderti mai, non arrenderti mai, black and white. Black and white, tira in alto una moneta, se non lo sai, se non lo sai. Una favola cos'è? Una favola per te è scoprire il tuo cuore, è scoprire l'amore. Una favola cos'è? Una favola per te è sentirsi più leggera, perché questa è la vivi oggi tu. Non sei più ragazzina, ti senti più carina, solo ieri eri diversa, ma oggi è cambiato qualcosa dentro di te, perché batte forte il tuo cuore, ma non sai se questo è amore, solo ieri l'hai incontrato ed è già tutto cambiato a partire da questo mondo. Un giro tondo di emozioni nuove, nuove per te, per te. Una favola cos'è? Una favola per te è scoprire il tuo cuore, è scoprire l'amore. Una favola cos'è? Favola per te è sentirsi più leggera, perché questa è una storia vera, vera, la vita.